picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. La puntata numero 34 di Picchi di Frequenza ci accompagna in un viaggio che comincia in Valle d'Aosta, dove faremo la conoscenza di Elena, rifugista del Grand Tourmalet, e prosegue con la 19esima edizione di Cinema Ambiente. Abbiamo poi una recensione da una delle ultime pubblicazioni di Versante Sud, ma prima le news della settimana. La prima delle notizie di questa settimana ci porta in provincia di Alghero, per l'esattezza a Capocaccia. Il titolo dell'articolo invece è Le indagini sulla via ferrata del Cabirol. È tratto da Osservatorio sulla libertà in montagna, quindi Alessandro Gogna e il suo blog. Si parla di una ferrata in località particolarmente suggestiva, ma all'interno di un'area protetta. Materiale utilizzato, diciamo così, stigmatizzato dal comunicato di Mountain Wilderness, da cui appunto l'articolo prende spunto, e anche, insomma, rischi per la nidificazione di specie protette. Insomma, tanti punti interrogativi su una cosa bella come le vie ferrate, che però talvolta ci parlano di storia, tante altre volte invece ci parlano di uno sguardo assolutamente poco attento a quello che è il territorio su cui andiamo a impattare, anche in maniere almeno apparentemente poco invasive. E restiamo proprio in Sardegna, perché il secondo contributo di oggi, tratto da planetmountain.com, ha come titolo La Gallura, l'arrampicata, luogo santo e il suo contest boulder, facciamo il punto. La firma è quella di Massimo Malpezzi ed è un interessante racconto del rapporto della gallura con l'arrampicata, quella appunto contemporanea, quella libera o del boulder, ma anche insomma all'interno di quelle che sono insomma un po' le tradizioni locali dell'arrampicata sarda. E questo insomma per chiudere il cerchio può essere un contributo di sicuro interesse, prima di passare invece a una notizia decisamente più grave e purtroppo molto recente, visto che l'articolo è stato pubblicato solo poche ore fa su Montagna TV, perché sono morti i due alpinisti indiani dispersi sull'Everest ormai da qualche giorno. Cambiamo decisamente taglio, anche se restiamo sullo stesso portale, perché invece Ada Mondra festeggia l'ennesimo 9A+, ripetendo Geocache, una arrampicata che sia lui che Megros definiscono strana piuttosto che difficile, ed è, come dire, un parere che parla da sé. Ci spostiamo quindi su altitudini.it, dove continua, sono diversi contributi pubblicati, il carteggio apparentemente senza fine tra il Club Alpino Italiano e l'AIGAE, l'Associazione delle Guide Ambientali Escursionistiche, su chi e come debba formare gli accompagnatori di escursionismo. Anche questa, carteggio apparentemente tecnico, ma che invece racconta di come il tema della pedagogia della montagna scaldi i cuori non soltanto evidentemente delle associazioni in questo momento più attive nel settore, ma anche di quanti avrebbero voglia di fare della passione una professione e districarsi attualmente, lo dico anche per esperienza personale, tra i corsi, i crediti, i brevetti, i papelli che servono, non è assolutamente economico né semplice. Però insomma, tant'è. È un tema su cui torneremo magari con un contributo un po' più significativo nelle prossime occasioni. Ora, un brevissimo brano Dannata, tratto da la soundtrack del trekking urbano cui accenneremo in chiusura e che si terrà domani a Milano, ma ne parleremo più approfonditamente attraverso la viva voce dei suoi protagonisti e delle vicende che racconterà il prossimo venerdì. E poi passiamo al primo degli incontri di oggi, si torna a parlare di rifugi e con un'intervista a cura di Martino Iniziato. Thank you. Quando sei solo e giovane, quando i sogni in fondo al cuore, ti senti triste e povero, se la vita è senza amore. Prendi la fisarmonica, fai dischiudere un balcone e a una bella signorina canti una canzone su per giù così. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna, so chiudi gli occhi e sogna, un giovanotto e un cuor che ti piace di più, e ad altro non pensare finché c'è la gioventù, sogna di una casetta e un bel chiaro di luna, sogni un bel pupo biondo o una bambola bruna. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Allora, siamo collegati al telefonicamente con Elena, una dei gestori del rifugio Gran Tourmalet in Val d'Aosta. Buongiorno Elena e benvenuta. Ciao, buongiorno. E l'abbiamo contattata per capire un po' la loro storia rispetto alla gestione del loro rifugio e anche un po' quali sono le condizioni della montagna. Ma cominciamo proprio da voi e dalla vostra esperienza. Da quanto tempo gestite il rifugio e cosa raccontereste della vostra esperienza? Dunque, noi innanzitutto siamo proprietari del rifugio, l'abbiamo costruito come famiglia e io personalmente sono gestore dal 2005. L'attività è un'attività prettamente estiva, dei mesi da giugno a settembre, e il rifugio si trova in una zona abbastanza isolata, nel senso che è raggiungibile a 2 ore e mezza a piedi dall'ultima strada asfaltata, e in più ci troviamo in una conca dove poi saranno raggiungibili delle montagne di 3000 metri con delle escursioni sia facili, sia impegnative, sia da scalare. La vita del rifugio, per me che ci vivo poi d'estate, è abbastanza impegnativa, nel senso che comunque tutto quello che nella città viene considerato una cosa normale, per noi non lo è. Faccio l'esempio, l'acqua non ce l'abbiamo, dobbiamo avere una pompa dell'acqua che ci procura l'acqua, non abbiamo la luce, riscaldiamo con una stufa a legna e quindi è un po' un dover un po' sopravvivere e mantenere le energie e occuparsi anche di questa parte qua. Ecco, il rifugio, tra l'altro non l'ho detto all'inizio, si trova a 2600 metri e da quello che ho capito, perché non ci sono mai stato, da lì si gode anche di una vista molto bella, molto ampia, sia sul Monte Rosa che sulle cime da 3-4 mila metri che sono l'intorno, giusto? Sì, noi in particolare ci troviamo nell'anfiteatro dove veniamo così, abbracciati da queste montagne. Vicino a noi ci sono alcuni laghetti che proprio hanno la vista sul ghiacciaio e diciamo che è una montagna un po' selvaggia rispetto ad altri rifugi. Ecco, tra l'altro mi sembra di capire che si trovi lungo l'altavia numero 1 della Val d'Aosta, è corretto? Sì, ci troviamo sull'altavia. E ci sono tanti turisti che la percorrono o è poco frequentata? Ma stanno aumentando i turisti che cominciano a conoscerla e apprezzarla. È l'altra via, in particolare tutte e due, la 1 e la 2, sono dei trekking abbastanza impegnativi perché comportano molti giorni di cammino. Però ovviamente i panorami e le atmosfere sono impagabili, ecco, ci vuole solo un po' di tempo. Ascolta, ma io volevo chiederti, dai 2600 metri del rifugio, avete modo anche di capire come sta cambiando la montagna? Noi in trasmissione abbiamo più volte parlato del fatto che i ghiacciai sono in forte difficoltà, si stanno ritirando e che il clima, soprattutto in alta montagna, sta cambiando in maniera forte. Voi in questi anni avete avuto modo di vedere questi cambiamenti? Ve ne siete accorti? Ma un pochettino sì, nel senso che le temperature si sono alzate parecchio, anche d'estate, l'esempio è l'estate scorsa che ha fatto molto caldo dappertutto e anche da noi abbiamo trovato delle temperature che appunto in 10 anni non avevamo riscontrato in montagna. Il ritiro dei ghiacci è scientifico, è provato e non... Noi in particolare il nostro rifugio non è in prossimità del ghiacciaio, quindi non è che lo vediamo giorno per giorno, però il caldo lo sentiamo, che cioè non è normale, non è abituale. Chiaro. Ascolta, prima di salutarvi ti chiederei se c'è qualche episodio divertente o particolare che vi è rimasto impresso nella vostra esperienza di rifugisti e anche se poi ci lasci i contatti attraverso cui arrivare al rifugio, vedere il rifugio, avete un sito molto ben fatto, molto aggiornato, una pagina Facebook, quindi insomma anche che programmi avete un po' per la stagione. Sì, dunque, un esempio divertente, ma non è un caso isolato, è un evento che capita a settembre e che coinvolge anche noi, che è il Tour de Géant, è l'endurance trail più faticosa al mondo, sembrerebbe a oggi. E lì incontriamo tutti questi atleti che partono da Courmayeur e arrivano, poi ritornano a Courmayeur sulle due alte vie, e ci sono tanti esempi di divertenti, di gente che non si ricorda dov'è, oppure è molto divertita da questa. Dall'arrivo in rifugio, stupita che tutti lo accolgono. Insomma, è un 2 o 3 giorni di atmosfera particolare che ogni anno ci arricchisce di esempi e di cose divertenti. Noi come rifugio, in particolare quest'estate, abbiamo delle attività organizzate. Abbiamo un corso di arrampicata per ragazzi in collaborazione con le guide alpine di Champollion Caillasse. E poi abbiamo anche, quest'anno in particolare lo stiamo testando, insieme a una ragazza, il corso di yoga in alta quota, che sarà ad agosto, il mercoledì nel pomeriggio. E altre attività, vabbè, noi facciamo parte insieme a altri 6 rifugi, facciamo parte di un tour, che è il tour dei 6 rifugi, e tutte queste attività si possono trovare sul nostro sito, che è www.rifugiograntournalen.com, e poi di lì ci sono i contatti, delle mail e i nostri telefoni. Perfetto. Allora, la data di apertura della stagione per voi? Perfetto. 23 giugno, neve permettendo. Grow up a hill and down the hole. dalla Valle d'Aosta al Piemonte, quindi ci spostiamo sì, ma non di troppo, perché questa settimana, anzi martedì prossimo per essere precisi, il 31 maggio, comincia Cinema Ambiente che giunge quest'anno alla sua 19ª edizione. Quindi dal 31 maggio al 5 giugno, per chi avesse di queste passioni, il 5 giugno, data conclusiva, è anche la giornata mondiale dell'ambiente convocata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, un'edizione appunto che ci parla anche tanto di montagna. Oltre 100 i film presentati e distribuiti nelle varie sezioni, premi speciali, documentari, insomma, tutto il pacchetto di un piccolo grande festival del cinema, peraltro organizzato proprio dal Museo Nazionale del Cinema, Fondazione Maria Adriana Prolo. Di che cosa vi parlo in particolare? Un paio di film ve li volevo presentare. Il primo ha come titolo Mon Viso, Mon Amour, produzione italiana, regista Fabio Giannotti, 52 minuti. Di che cosa parla? Il Mon Viso, per chi appunto condivide questa nostra passione per la montagna, è il simbolo della nascita del alpinismo nostrano, insomma, sotto l'egida del noto ministro Quintino Sella. Ma questa storia comincia circa, anzi un pochino di più, un secolo dopo. Siamo il 22 luglio del 1975, quando Nino Viale, all'epoca maestro di sci di Limone Piemonte, per la prima volta lungo il canale Coolidge, scende appunto con gli sci ai piedi la parete nord del Mon Viso. All'epoca un'impresa peraltro registrata da una cinepresa in Super 8. 40 anni dopo, cinque ragazzi ripetono l'impresa. Sono in realtà tre le generazioni a confronto, quindi all'interno di questo docufilm, insomma, che racconta del rapporto tra il Mon Viso, lo sci alpinismo, le generazioni, le tecniche, gli stili, e che sicuramente, insomma, può essere un'occasione un po' diversa dal solito, insomma, lontana dalla storia, ma anche lontana dalla contemporaneità, chiusa sul presente, per riscoprire, insomma, qualcosina che non conoscevamo del Mon Viso e della sua parete nord. Intenzione di fare Colissier, allora abbiamo detto ma domani andiamo a provare a fare la nord del Viso. Lui ovviamente era molto preoccupato perché l'aveva risalito moltissime volte, conosceva il Mon Viso come le sue tasche. Io che non l'avevo mai fatto, avevo anche dei seri dubbi. Comunque abbiamo mangiato lì, abbiamo fatto cena, abbiamo mangiato. Ho dormito pochissimo, è ovvio, la tensione c'era, la paura c'era. Il giorno dopo ci siamo svegliati alle 4, alle 5 siamo partiti, 5, 5 meno un quarto, alle 9 e un quarto eravamo in punta. Bellissima, stupenda, senza problemi nella risalita. Abbiamo fatto un po' di colazione, quel poco che avevamo nello zaino. Io mi ricordo che mi sono anche addormentato per pochi minuti, un po' dalla fatica, un po' per la tensione. Dopodiché mi sono svegliato, abbiamo fatto due foto e ci siamo avviati verso la discesa. Ed era questo un brevissimo estratto tratto dalla pellicola, mentre il regista Fabio Gianotti, già direttore del Nuovi Mondi Film Festival, ha fondato una casa di produzione, diretto diversi cortometraggi. Il film è, come dire, è una collezione di immagini suggestive, evidentemente, ma anche di belle interviste fatte, insomma, che hanno uno stile, un realismo e una piacevolezza del racconto non comune, quindi ve lo consiglio. In ogni caso, il secondo dei consigli è quello di fare un giro su cinemaambiente.it. Se siete a Torino e dintorni, meglio, ma in ogni caso, insomma, quello diventa la vostra porta d'accesso per scoprire un po' che cosa ruota attorno al programma ufficiale di questo festival. La prossima settimana avremo invece un'altra segnalazione, ma non vi anticipo niente perché andiamo a ascoltarci la recensione della settimana tratta da uno degli ultimi testi editi da Versante Sud e poi andiamo a concludere questa puntata numero 34. So I keep Non possiamo procedere con l'ultima rubrica finché non vi leggo anche qualche anticipazione tratta dal film che invece andremo a presentare la prossima settimana. Il titolo è Andermatt o Global Village o Villaggio Globale se preferite. Il regista Leonidas Bieri, già autore di un lungometraggio dal nome assolutamente impronunciabile nel 2007, per la produzione di Doc Mine, realizza invece un vero e proprio film, appunto 90 minuti di racconto, da cui vi leggo qualcosa tratto dalla sinossi. In varie occasioni abbiamo avuto abbiamo provato a raccontare attraverso ad esempio la presentazione di alcuni numeri di dislivelli di un ritorno alla montagna, all'ambiente alpino, fatto di giovani riabitanti, spesso come dire affezionati anche all'etica e all'estetica della cultura rurale, oppure ai riabitanti migranti, a quanti arrivano sulle coste del nostro paese, lo attraversano in cerca della rotta per il nord e talvolta si fermano anche attraverso una serie di progetti che puntano a riattivare la vita di piccole comunità locali, proprio insomma in ambito alpino o appenninico. Questa è una storia un po' diversa, quindi passiamo alla sinossi. Un miliardario egiziano compra un'intera valle nel cuore della Svizzera, regalando alla popolazione locale, colpita duramente dalla migrazione, la speranza di attrarre nuovi investimenti e di un futuro migliore, grazie alla costruzione di un resort di lusso che ospiterà il jet set internazionale. Questa in sintesi la storia di Andermatt, piccolo villaggio in crisi che si è ritrovato a vivere in un sogno grazie al ricchissimo investitore Sami Saviris, e che ripercorriamo dalla posa della prima pietra fino all'inaugurazione del primo hotel extralusso 4 anni dopo, cercando di capire se e come la comunità della valle sopravvivrà a un cambiamento così radicale. Non soltanto una proiezione, perché al termine ci sarà un incontro sul tema del turismo alpino. E quindi insomma questo è un altro dei film che vi invito a così a sbirciare, a curiosare all'interno della densa programmazione di Cinema Ambiente. Noi invece questa volta il tempo l'abbiamo terminato per davvero, proverò insomma per la prossima settimana magari a darvi un terzo suggerimento di visione, magari con un'intervista con uno degli autori, e la parola passa a Martino. Roberto Sassi è stato un grande arrampicatore e tracciatore italiano, un vero e proprio avanguardista dell'arrampicata sportiva che ha contribuito a diffondere in Italia dalla fine degli anni 70 e per tutti gli anni 80. Zanzara e Labradoro, Roberto Sassi e la nascita del free climbing in Valle Sarca, è il libro curato da Lia e Marianna Beltrami per l'edizione Versante Sud, e ne ricostruisce con sensibilità ed affetto la vita, le avventure, i sogni e le amicizie. Il libro raccoglie alcune delle testimonianze raccolte tra i suoi amici più cari, registrate per la realizzazione del documentario Zanzara e Labradoro, storie, mani e silenzi di Roberto Sassi, presentato nel 2014 al Trento Film Festival. Sassi fu anche, tra le tante cose, il primo campione italiano di arrampicata e pioniere nella scoperta delle falesie e della Valle del Sarca. Il volume, dunque, ci restituisce il ritratto di un uomo brillante e vivace, sognatore, a tratti visionario, che venne travolto dall'entusiasmo e dalla passione per la montagna e l'arrampicata, che negli anni Ottanta portarono Roberto Sassi dalle Dolomiti allo Yosemite, ma anche a partecipare alla nascita del free climbing in Italia, alla diffusione dello stile di vita del climber fatta di montagna, spirito di scoperta e vitalità smisurati. Tanti gli amici che hanno offerto la loro testimonianza per il libro, tra cui il suo grande amico Manolo, Mauro Corona, Marco Furlani e molti altri. Il libro è anche un piacevole spaccato sugli anni 70 ed 80, quando la necessità di spazi di vita nell'autenticità della natura era anche indotta dal contesto politico e sociale dell'Italia del terrorismo sovversivo neofascista e dell'attivismo sociale dei movimenti. Oggi Roberto lo troveresti nelle palestre nascoste dal mondo, dove non incontreresti nessuno con il suo zaino sulla schiena, con la sua cicca in bocca, racconta una testimonianza. Schivo di tutto e di tutti, con il suo trapano a cercare luoghi per estraniarsi dal mondo esclusivamente per arrampicare, la sua ragione di vita era questa, racconta un altro. Mauro Corona dice di lui nella parte finale del libro. Era una persona dolce, nel senso che era buono. Era un uomo buono, oltre che un rocciatore eccezionale. Sono stati i primi a scrivere, insieme a Manolo e con Mari Acker, a lasciare una pietra miliare nell'arrampicata libera di quegli anni. C'era il trio, Bassi, Manolo e Mari Acker, con la Luisa Iovane. Poi vennero gli altri, ma Roberto è stato uno di quelli che ha lasciato il segno. la notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi ci disprezzate, come mai? Ma che colpa abbiamo noi? Anche questa puntata, ed era la numero 34 di questa nostra trasmissione, volge al termine. Io, come di consueto, vi invito a condividere con me, con noi, idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, insomma, quel che vi pare, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network azzurro all'account @avuzzo3 o su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza, perché noi ci sentiamo una volta a settimana, ma l'archivio pubblico di tutte le oltre 30 puntate di Picchi di Frequenza è sempre disponibile online, di modo da fare, insomma, recuperi, approfondimenti o semplicemente per suggerire a chi ancora non la conosce questa nostra piccola trasmissione. Prima di salutarci questa settimana, però, un paio di appuntamenti ve li devo ricordare. Anzitutto, domani sabato 28 maggio alle ore 15:30, per chi è a Milano e dintorni, alle ore 15:30 appunto il trekking urbano dell'Ape di Milano, come di consueto l'appuntamento al pozzo di Piazza Mercanti, e sarà insomma un viaggio dentro uno dei sestieri della città a spasso nel tempo, nella storia e nel presente della metropoli meneghina. Anche un appuntamento domenicale, questa volta invece organizzato dai Ribelli della Montagna, con appuntamento alle ore 8:30 nella piazza della chiesa di Rovetta, perché va in scena la Marcia Partigiana, un'escursione al Monte Blum. I riferimenti dei due appuntamenti li trovate sui noti social network, oppure insomma cercando un po' i riferimenti Ape Milano o Ribelli della Montagna. Noi ci sentiamo invece venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.